perché il Papa si lamenti degli ostacoli che molti governi oppongono alla libertà religiosa non è cosa che possa stupire. È il suo mestiere. E comunque noi sappiamo che in questo mondo imperfetto di libertà non ne gira tantissima, e anche dal punto di vista ecclesiastico e religioso di divieti, prevaricazioni e persecuzioni non c'è scarsità. Per una volta siamo quasi tentati di schierarci in questa accorata denuncia al suo fianco. Che poi il Santo Padre, entrando nel concreto, dia l'impressione di preoccuparsi soprattutto della libertà della Chiesa di cui è personalmente a capo, nel senso di chi considera la libertà, il diritto alla libertà religiosa, più che un principio universale da riconoscere a tutti, un privilegio più o meno esclusivo della sede di Pietro, è forse meno entusiasmante, ma altrettanto comprensibile. Non si è stati per oltre 20 anni prefetto del Santo Uffizio, o come lo si chiama oggi, senza introiettare una certa qual predisposizione all'esclusività in materia di fede. E d'altronde, questa è la tradizione della Chiesa Cattolica. E almeno dalle elezioni di Pio IX nel 1846 che i laici di buona volontà aspettano la comparsa di un Papa liberale, ed è chiaro che dovranno aspettarla ancora per un bel pezzo. Che il Sommo Pontefice infine sostenga, come ha fatto nel discorso che ha pronunciato a Angelus domenica scorsa, che la politica, l'agnosticismo e il relativismo sono i tre principali pericoli che minano la libertà religiosa nel mondo, è cosa che fa un po' cascare le braccia, ma è affatto coerente con i concetti che l'ottimo Ratzinger ha espresso sin dal giorno della sua elezione e prima. Sono degli ingenui par nostro. Potevano ritenere che il pericolo principale in materia fosse l'esclusivismo di chi, certo di detenere in ogni sua sfumatura la verità, decide di impedire agli altri, per il loro stesso bene, di sviarsi sul cammino dell'errore. Solo dei vecchi laicisti incancreniti potevano supporre che fra i nemici della libertà ci fossero, che so, gli ayatollah iraniani, che puniscono direttamente con l'impiccagione le devianze teologiche e morali, comprese quelle relative ai costumi sessuali e all'assunzione di bevande alcoliche, o gli wahhabiti sauditi, che per comporre lo stesso genere di divergenze fanno ricorso alla lapidazione e alla decapitazione con la scimitarra. Di tutto questo la Chiesa si duole con grande prudenza o non si duole affatto. Anche perché, come ci insegnano in questi giorni gli uomini del cardinale Ruini, al principio di affidare la difesa pratica dell'ortodossia alle leggi del braccio secolare, resta ancora affezionata. E cara grazia che in Italia i vescovi sono buoni e alla lapidazione delle adultere hanno rinunciato da un po'. Per il Papa il pericolo oggi come oggi è notoriamente un altro, e consiste nel fatto che troppo spesso la libertà religiosa, citazione, pur riconosciuta sulla carta, viene ostacolata nei fatti dal potere politico, oppure in maniera più subdola dal predominio culturale dell'agnosticismo e del relativismo, chiuse le virgolette. Che a prima vista sembra un'affermazione discutibile ma fondamentalmente innocua, ma poi, visto che le parole hanno pur sempre un loro significato, e il contrario del relativismo non si scappa all'assolutismo, e un eventuale predominio culturale dell'assolutismo sarebbe quello in cui solo ai portatori dell'unica verità assoluta è lecito farne professione, si scopre significare che la religione, nel pensiero di sua santità, sarà veramente libera soltanto quando tutti saranno tenuti a credere a norma di legge in quello che lui, Ratzinger, ritenga bisogna credere. Niente di nuovo. Le affermazioni del genere sono prodighi dai tempi della patristica ai pensatori cristiani. Qualcuno, come Tommaso d'Aquino, non era tanto d'accordo, ma non conta. E il Papa, naturalmente, in un mondo libero e laico come quello che il suo malgrado cerchiamo da circa 2 secoli di costruire, è libero di dire tutto quello che vuole. L'unico vero problema, dal nostro punto di vista, non riguarda lui. Riguarda quei politici laici ma non laicisti che sgomitano attorno a lui per avere il privilegio di baciargli l'anello e in una settimana non hanno trovato il tempo e il modo per precisare che la libertà, secondo le leggi della Repubblica, è tutta un'altra cosa. Tante bocche cucite a sinistra non meno che a destra, non fanno davvero sperare in nulla di buono. Thank you.